Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Oggi ci trasferiamo insieme a voi in una meta davvero esotica, quella Sudafrica, che si trova all'altro capo del mondo e che rappresenta una destinazione davvero interessante per i giovani all'ascolto che amano le sfide. A guidarci in questa scommessa sudafricana un giovane imprenditore e investitore italiano che, dopo alcuni anni di esposizione internazionale, ha deciso di puntare proprio verso l'emisfero australe. Un'occasione da non perdere come ogni settimana sulle frequenze di Radio 24. In apertura di puntata vi spiegheremo per filo e per segno cos'è AIRE, l'anagrafe italiani residenti all'estero. Un servizio consolare ancora poco conosciuto ma di grande importanza per tutti coloro i quali superano l'anno di residenza al di fuori dei nostri confini. Tra poco vi spiegheremo perché nella rubrica di servizio Toolbox Eures Italia vi segnalerà le nuovissime opportunità di recruitment a livello europeo. E a chiudere vi parleremo di un libro molto interessante che racconta l'esperienza dell'espatrio dal punto di vista delle madri. Come sempre facciamo, approfitteremo dell'occasione anche per dare qualche consiglio utile alle giovani mamme che risiedono fuori dall'Italia. Tutto è pronto per puntare dritti in direzione di Johannesburg. Siete pronti a partire con noi? Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci fa riflettere in un periodo come questo, dominato dalla crisi pandemica. Spunto che arriva dai dati della fuga dall'Italia dei medici per mancanza di posti e per i bassi stipendi. Secondo quanto riportato dalla Corte dei Conti nell'ultimo rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, sulla base dei dati OCSE degli ultimi 8 anni sono stati oltre 9.000 i medici formatisi nella penisola, poi andati a lavorare all'estero. Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, i mercati che più degli altri hanno rappresentato una soluzione alle legittime esigenze di occupazione e adeguata retribuzione, quando non soddisfatte, dal settore privato nazionale. Una condizione che, sottolineano i magistrati contabili, pur deponendo a favore della qualità del sistema formativo nazionale, rischia di rendere le misure assunte per l'incremento delle specializzazioni poco efficaci, se non accompagnate da un sistema di incentivi che consenta di contrastare efficacemente le distorsioni evidenziate. E lasciamoci alle spalle questi dati davvero critici per passare a Toolbox. Proseguiamo oggi con le indicazioni utili del Ministero degli Affari Esteri dedicate a chi già risiede oltre confine oppure intende trasferirvisi a breve. Si parla spesso di AIRE, l'anagrafe italiani residenti all'estero, una risorsa importante per tutti i connazionali che vivono fuori dalla penisola, ma alla quale molti continuano a non iscriversi nonostante scatti l'obbligatorietà per legge dopo un anno di vita all'estero, come ci spiega Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina. Cos'è, per iniziare, AIRE? È proprio l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. È, diciamo così, il database cui tutti gli italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi, quindi chi sta all'estero per più di un anno, dovrebbe obbligatoriamente iscriversi. Non è una facoltà, non è un'opzione, è proprio un obbligo per chi sta all'estero per più di un anno. Ed è un modo importante per interagire poi con il consolato e con le istituzioni italiane. Mentre ricordiamo, sotto l'anno si ha l'opzione di potersi iscrivere o non iscrivere. Sì, assolutamente. Chi sta a meno di 12 mesi può anche benissimo non iscriversi, ed è quello che, devo dire, la maggior parte poi fanno. Noi abbiamo oggi 6 milioni di italiani iscritti a questa anagrafe degli italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE. Spieghiamo allora, ambasciatore, come ci si iscrive all'AIRE? È una procedura complicata oppure una procedura che nel tempo si è semplificata anche approfittando dei servizi digitali? Dunque, la procedura è semplice, quella classica è recarsi in consolato, al proprio consolato di riferimento, e iscriversi quindi con lo sportello. Però recentemente abbiamo avviato un portale telematico, quindi reperibile facilmente su internet, che si chiama Fastit, che consente proprio l'iscrizione a distanza, l'iscrizione online, e questo comporta molti vantaggi. Intanto è una procedura semplice, veloce, che assolutamente le nostre sedi consolari consigliano proprio per chi vuole iscriversi all'AIRE, e poi è la porta in un certo senso a tanti servizi consolari digitali che potranno essere erogati in futuro. Attraverso questo portale ci si può non solo iscrivere, ma mantenere aggiornati i propri dati nello schedario consolare, comunicare i propri spostamenti da un paese all'estero all'altro, e in futuro forse anche ottenere, anzi senza forse, ci stiamo lavorando, ottenere il rinnovo del passaporto e il rilascio del passaporto. Ci sono anche altri servizi che grazie ad AIRE è possibile avere, ottenere? Bene, l'AIRE non è solamente un obbligo, ecco, quello di iscriversi iscriversi all'AIRE, ma comporta dei benefici concreti, comporta dei vantaggi. Intanto è importante che il consolato sappia che qualcuno è residente in un paese straniero, lo possa eventualmente aiutare, assistere, perché poi quando succedono delle tragedie, dei problemi, anche piccoli, legati a incidenti, legati a problemi sanitari, magari, ecco, il fatto di non essere conosciuto dal consolato può portare dei problemi. È più semplice attraverso l'iscrizione all'AIRE avere rinnovato passaporto, carta d'identità. Tra l'altro stiamo adesso all'estero avviando il processo di rilascio della carta d'identità elettronica, mentre chi non è iscritto all'AIRE lo deve fare in Italia, quindi questo è un ulteriore vantaggio. Poi si può votare, ci si può sposare o anche contrarre un'unione civile per chi è iscritto all'AIRE, si può fare in consolato, mentre chi non è iscritto all'AIRE deve, anche in quel caso, se lo vuole fare in Italia, diciamo per il sistema civile italiano, deve tornare da noi. E poi si possono chiedere la trascrizione di atti di stato civile, la nascita, altre pratiche, e soprattutto, questo in maniera tangibile è un importante vantaggio, si evita la doppia imposizione. Esatto, allora, proprio perché AIRE è stata un po' messa in sordina da tanti connazionali all'estero per una paura fondamentale, e cioè il timore di perdere assistenza sanitaria quando si torna in Italia. Questo è vero, però è anche vero che, come diceva lei, attenzione, perché rischiate poi di compensare in negativo questo pagando più tasse. Dunque è vero che chi si iscrive all'AIRE perde il diritto all'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è uno di quei motivi per cui noi abbiamo fissato, il legislatore ha fissato 12 mesi, quindi chi sta all'estero effettivamente per brevi periodi, per 6 mesi, 8 mesi, 3 mesi, e quindi sa già che dovrà tornare in Italia, effettivamente non deve iscriversi all'AIRE, perché poi avrà bisogno del Servizio Sanitario Nazionale una volta tornato. Ma chi risiederà per lunghi periodi all'estero, beh, effettivamente deve contemperare bene il vantaggio di iscriversi all'AIRE con quello di evitare una doppia imposizione fiscale. Lui rischia di pagare le tasse nel paese di residenza e in Italia. Certo, perderà il Servizio Sanitario Nazionale, però io credo che questo possa essere più che compensato dal vantaggio di non pagare due volte le tasse. Per maggiori informazioni, www.esteri.it, sezione Anagrafe Italiani Residenti All'Estero. Ed è il momento ora di conoscere il testimone della settimana. Si tratta di un imprenditore e investitore 37enne che, dopo esperienze in Gran Bretagna e Australia, ha deciso di puntare sul Sudafrica, specializzandosi nel settore minerario. Oggi è qui con noi On Air a spiegarci come ha fatto e a offrirvi anche un modello da seguire. Buon pomeriggio, Lorenzo Tencati. Sì, buon pomeriggio, Sergio. Lorenzo, cominci a girare il mondo da studente di ingegneria, capendo che una laurea non basta se non è accompagnata dalla conoscenza delle lingue e da un'esperienza internazionale importante. Da lì, l'idea di partire per Nuova Zelanda prima e Australia poi. Cosa hai fatto agli antipodi? Agli antipodi, essendo, diciamo, una prima esperienza, fondamentalmente ci si accontenta. Ho fatto l'assistente di un centro di arrampicata sportiva, poi il barman in Australia, intanto ovviamente studiavo inglese in Nuova Zelanda, e invece ero in un transfer dal Politecnico di Milano in Australia. In Italia inizi a lavorare per una società di consulenza americana, ottieni un trasferimento a Parigi, dopodiché parti per un MBA alla London Business School. Lì matura definitivamente la tua vocazione imprenditoriale, che si è poi tradotta nella costituzione di ben 3 imprese, le prime 2 con altri soci. Di cosa vi occupate? Allora, una si chiama Singular Group, è una società di consulenza strategica che oggi è globale, e con particolare, all'inizio in particolare avevamo un focus sui mercati emergenti, e l'altra è Winterberg Group, che invece fa investimenti di venture capital e private equity soprattutto in centro Europa. E poi c'è la tua di azienda, dove sei coinvolto sostanzialmente da solo. Di cosa si occupa LTH Group? La mia, fondamentalmente, cerchiamo di sostenere, aiutare giovani imprenditori che hanno ovviamente un obiettivo, insomma, di impresa e quindi di profitti, ma anche che vada un pochino al di là e che quindi, insomma, crei valore al di là dei profitti. Allora, Lorenzo, con te arriviamo ai consigli pratici per aspiranti imprenditori internazionali, ma il focus, lo sappiamo, riguarda soprattutto il Sudafrica, che è la tua terra di elezione. Fare impresa in Sudafrica è complesso, anticipi a Generazione Mobile @radio24.it. Questo va spiegato bene al di là dei cliché. Ci sono anche delle leggi che non aiutano. Perché? Ma il Sudafrica, insomma, è un paese con una storia ovviamente molto complessa, come molti sanno, che viene dall'apartheid. quindi con una necessità di fatto di ribilanciare, di ritrovare un'equità tra le diverse etnie, alcune delle quali, come sappiamo, sono state insomma diciamo svantaggiate dalla fase di apartheid. Ben 3 le capitali con 35 lingue parlate, 11 quelle ufficiali. Non è sufficiente allora conoscere solo l'inglese? No, direi che l'inglese basta, ma ovviamente insomma se uno vuole ottenere una totale integrazione culturale, l'inglese sta un po' stretto. Tra gli altri problemi su cui occorre anche mettere in guardia chi volesse avviare un'impresa in Sudafrica c'è la moneta locale, oltre all'elevata disoccupazione e alle disuguaglianze. Come tutto ciò incide negativamente sul business di un imprenditore? La valuta è molto volatile, quindi se uno ha ricavi e costi in rand sudafricano non è un enorme problema, se uno comincia ad avere parte dei costi e parte dei ricavi non in valuta locale, le cose diciamo si complicano un po', quindi quella è una cosa da tenere in considerazione. Il rand è stato per anni in svalutazione diciamo continua, quindi quella è sicuramente una cosa di cui tener conto. La criminalità sarebbe inutile negare il fatto che è un paese in cui bisogna fare attenzione, quello ha a che vedere con la sicurezza personale, ma ovviamente anche a che vedere con la vita dell'imprenditore, quindi bisogna stare attenti a istituire dei sistemi di controllo che facciano in modo che insomma nessuno possa prendersi gioco del tuo business. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Lorenzo Tencati, 37enne imprenditore e investitore che ha scelto il Sudafrica quale base delle proprie attività. Terra assolutamente non semplice, ma in grado di offrire anche grandi opportunità. Lorenzo ci sta spiegando quali in modo davvero concreto. Riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. Lorenzo, fin qui abbiamo affrontato gli aspetti critici, ma ci sono anche le opportunità. E tu rifletti sul fatto che un paese così difficile può regalare proprio delle opportunità. In primis mancano le competenze e qui chi porta know-how da fuori è avvantaggiato, è corretto? Sì, non è tanto un tema di know-how da fuori, è più un tema di know-how, nel senso che ovviamente, come sappiamo, insomma, l'educazione, il sistema europeo, americano, occidentale in genere produce grandi competenze che nel momento in cui sono applicate in un paese in cui c'è un sacco di disoccupazione e analfabetismo eccetera, hai un vantaggio competitivo, cosa che poi tra l'altro va anche a vantaggio del paese stesso, perché crei competenza locale insegnando ai suoi collaboratori. L'aspetto competitivo e quindi il tuo vantaggio competitivo dell'avere, del portare competenze di grande valore conta di più della velocità della crescita del mercato, che poi se uno va proprio a guardare negli ultimi anni non è cresciuto così tanto. Un settore nel quale consiglieresti di investire in Sudafrica ad un giovane imprenditore, uno solo? Se ne dovessi dire uno solo da imprenditore, probabilmente le energie rinnovabili e tutto ciò che sta associato alle energie rinnovabili. Capitolo visti per imprenditori e lavoratori sono complicati, i visti per diciamo venire a lavorare in Sudafrica? I visti purtroppo sì, sono abbastanza complicati, non complicati ma lunghi e anche un pochino complicati, quindi il consiglio lì è cercare se possibile di farsi trasferire lì da un'azienda che ha sede sia in Italia che in Sudafrica, oppure andare lì da turista, conoscere gente e insomma farsi assumere, perché poi l'azienda locale deve giustificare e deve occuparsi della gestione del visto. Lorenzo, lasciamo un attimo da parte la dimensione imprenditoriale, concentriamoci invece sulla possibilità di lavorare in Sudafrica, quindi ottenere un contratto. Nella lettera che hai inviato a Generazione Mobile hai fatto un elenco dettagliato delle aree dove una carriera professionale in Sudafrica può rivelarsi interessante. Il tempo è tiranno, per cui ti chiedo solo di elencare queste aree. Secondo me, in termini di carriera professionale, io direi bancario, il settore bancario e assicurativo è interessante, il settore del tecnologico, delle start-up, specialmente a Cape Town, le ONG, che ovviamente sono molto rilevanti visti i problemi del luogo, e poi il minerario sarà sempre importante per il Sudafrica. Uno sguardo rapido alla vita in Sudafrica. Tu, tra l'altro, risiedi a Johannesburg, sei temporaneamente in Italia, ma per questioni legate, lo sappiamo, come molti nostri professionisti mobili, sei in Italia per l'impossibilità di tornare nell'immediato in Sudafrica, ma vivi comunque a Johannesburg. Allora, come cercare casa, quali affitti aspettarsi o anche dei siti da consigliare? Sì, un sito diciamo buono si chiama Property24, è abbastanza, diciamo, il costo della vita è più basso dell'Italia, direi tra la metà e i due terzi. Non è difficile trovare, e io comincerei, insomma, appena arrivato, ad andare in uno di questi complessi con sicurezza e, diciamo, appartamenti magari gestiti o comunque in aree, diciamo, più sicure, per poi invece decidere più avanti, quando si conosce meglio il luogo, dove andare a vivere, insomma. Lorenzo, nel ringraziarti, potremmo continuare a parlare per altri minuti, purtroppo però non abbiamo veramente più tempo, ti pongo la nostra domanda di rito riguardo ai consigli per giovani desiderosi di fare esperienze internazionali. Nel tuo caso non te ne chiedo uno, ma ben tre consigli pratici. Quali ti senti di dare? Allora, il primo, secondo me, è veramente buttarsi, nel senso che è un po' come l'esame di maturità, all'estero bisogna andarci, punto. Il secondo è sul processo, ragazzi, il curriculum di una pagina focalizzato sui successi, sui risultati, non sulle attività, niente pappardelle lunghe tre pagine. E poi, se non riesci a farti presentare qualcuno dall'estero, quindi avere contatti diretti, vai sul posto e fai networking lì, perché il CV mandato così a caso o sui grandi numeri non funziona. Bene, è giunto ora il momento di passare alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia EURES Italia. Sentiamo. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rete EURES, il network europeo che si occupa di mobilità lavorativa e professionale. Chi vi parla è il local expert della provincia di Rimini, Jean-Christophe Pirini. Il focus di oggi è Ready to Go On, pronti a ripartire, un'iniziativa molto importante ed innovativa che si svolgerà l'8 luglio. Si tratta di una fiera del lavoro online organizzata dal team EURES Italia per dare una risposta precisa ed energica, in particolare in questo periodo, sia alle persone in cerca di lavoro sia alle aziende. È un evento da non lasciarsi sfuggire per chi cerca lavoro e sta valutando un'esperienza all'estero o vuole lavorare in Italia, o ancora per chi è interessato al telelavoro, ma anche per tutte le aziende che possono trovare i propri candidati ideali in tutta Europa. Facciamo il punto. Sei di ritorno dall'estero o vuoi ripartire con un'esperienza internazionale? Sei una startup o il tuo core business è il settore dell'ICT, logistica, edilizia, il turismo o altri ancora? Attenzione! Durante la fiera le aziende presenti avranno a disposizione un cruscotto digitale che permetterà loro di promuovere le offerte di lavoro, realizzare uno spot aziendale e soprattutto fare colloquio a distanza con i candidati. Come lavoratore potrai già da ora inserire il tuo curriculum e consultare le posizioni aperte e candidarti. In tal modo, durante la fiera, potrai sostenere colloqui di lavoro con le imprese o interagire via chat sia con le aziende sia con i nostri consulenti. Per facilitare la partecipazione di tutti, rimanendo alle proprie postazioni, Pronti a Ripartire sarà in Virtual Edition attraverso una suite di canali e metodi di reclutamento come chat online, live streaming e video interviste. Ma questa fiera è anche un importante momento di informazione e orientamento, con temi come EURES e la mobilità in Europa, i programmi europei finanziati, Your First EURES Job e Reactivate per tirocinio e apprendistato e contratti di lavoro, reti europee per la mobilità, sicurezza sociale e sussidi, il ruolo dei social e le tecniche nelle ricerche di lavoro. La partecipazione gratuita. Visita il sito www.europeanjobday.eu. Le offerte di lavoro sono in continuo aggiornamento. Su Facebook la parola chiave è Eures Italy. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi parliamo di un libro uscito nella sua seconda edizione lo scorso ottobre che analizza l'espatrio da un punto di vista delle donne e delle madri, quelle che per motivi professionali ma non solo lasciano l'Italia. Tra Germania, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Isole Falkland, Senegal, Australia, Kuwait, Emirati Arabi e Regno Unito, un giro del mondo al femminile, come ci racconta Stella Colonna, curatrice dei volumi Mamme italiane nel mondo. L'idea del primo volume è nato a seguito del mio personale di espatrio, perché quando mi sono trasferita con la mia famiglia negli Stati Uniti, diciamo che all'inizio, passato l'euforia della vacanza lunga, io ho cercato conforto e consigli nei gruppi di altre mamme che anche loro erano espatriati. Al termine del mio espatrio, quando sono rientrata, perché noi avevamo due scelte, o restare o tornare, per fortuna, e abbiamo potuto scegliere, siamo rientrati in Italia. Quando siamo rientrati mi sono resa conto che all'interno di tutte queste storie, di tutte queste donne, c'era una grande ricchezza e un grande supporto per tutte quelle persone, mamme nello specifico o comunque in generale, che dovevano fare il salto. Partirei con le problematiche più frequenti che avete raccolto. Ma la nostalgia di casa fondamentalmente, e che quella insomma è importante per soprattutto per le mamme, per i bambini. E la lingua per le persone che espatriano in posti dove la lingua è molto complicata, come la Germania per dire. E poi la burocrazia, anche quella, insomma, noi qui bene o male siamo abituati in Italia a conoscere più o meno le leggi, quando spazi devi ricominciare da zero. Quali sono i consigli più frequenti, più importanti che fornite all'interno del libro per affrontare al meglio un espatrio? Informarsi prima, senza dubbio, e se si ha la possibilità iniziare a studiare la lingua con molto anticipo, perché conoscere, sapere come muoversi è fondamentale una volta che ci si trova in un posto che già non si conosce, non si hanno supporti a cui insomma chiedere aiuto, ritrovarsi senza poter parlare, senza sapere dove andare, è veramente difficile, ecco. E poi immagino ci siano anche due dimensioni, la dimensione della donna che espatria con figli per il suo lavoro e la dimensione invece della donna espatria a seguito del marito sempre con figli. Qui quanto cambia, anche se vogliamo, la percezione, la problematica? Ma cambia se si hanno o non si hanno figli, perché una mamma poi è orientata più o meno a quello. Una donna che non ha figli può concentrarsi su se stessa. Una mamma che espatria, la prima cosa che fa, cerca scuole, cerca gruppi di contatto, cerca altre mamme con il quale insomma far ambientare i propri figli, perché una volta che si sistemano loro, metà del lavoro è fatto. E la differenza immagino la facciano anche i paesi. Ci sono paesi dove le mamme sono molto più aiutate e paesi dove lo sono meno. Sì, è vero. C'è una delle nostre autrici, Sara Bruxelles, per esempio, che riesce a conciliare benissimo il lavoro da manager con il figlio a casa. O per esempio Flavia, che adesso si è ritrasferita, ma prima stava nella Repubblica Dominicana. Lei ha partorito, fatto un cesareo e la settimana dopo era con la bimba nel suo albergo che dirigeva, insomma, senza nessun problema. Quindi qua sarebbe un po' difficile da gestire, sì. Per maggiori informazioni, Mamme Italiane volume 1 e volume 2, a cura di Stella Colonna, prospettiva editrice. E allora chiudiamo la nostra puntata con i consueti input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. E infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi stanno ascoltando? Fate parte della nostra Generazione Mobile, scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it.